Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Immigrazione, tutto esaurito nelle strutture destinate all'accoglienza. Critica la situazione a Gradisca. In tanti dormono in strada. Mentre iniziano le grandi manovre per la nomina dei sottosegretari del governo Meloni, in un documento le richieste delle regioni al nuovo governo. Sfregia il volto di una donna con il vetro di una bottiglia, ventenne udinese arrestato dalla polizia a casa del padre dove si era rifugiato. Il caro energia e l'inflazione al centro di un convegno a Pordenone, cui ha partecipato il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra, ma si è parlato anche delle nuove istanze del mondo del lavoro e della formazione. La Slovenia tornerà alle urne il 13 novembre con il ballottaggio tra il conservatore Angel Hogar e la giurista indipendente Natasha Pirc-Musar. Il comune di Trieste presenta un piano per il risanamento radicale di marciapiedi e scalinate e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Meteo permettendo, anche nella nostra regione oggi sarà possibile vedere l'eclisse parziale di sole che inizierà poco dopo le 11. Alle 7:19 minuti e 16 secondi di martedì 25 ottobre, un cordiale buongiorno da Daniele Letige e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo come di consueto con la pagina del tempo, cielo dannuvoloso ha coperto sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 19 gradi, mare poco mosso con temperatura di 20 gradi e 5 decimi, Gorizia 14 gradi, Udine 14 gradi e 5 decimi, Pordenone 15, Piancavallo e Sappada 9 gradi, Tarvisio 10, Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, Tolmezzo 14 gradi, in quota sull'Usari sullo Zoncolan 5 gradi, tornando sulla costa Lignano 17 gradi, grado 18, temperatura del mare 19 gradi e mezzo. Siamo ora alle previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Fino al primo mattino di oggi cielo nuvoloso o coperto con piogge sparse da moderate ad abbondanti, localmente intense sulla fascia orientale, dove saranno possibili anche rovesci o temporali. Nelle ore centrali generale miglioramento con qualche schiarita. Sempre più difficile la situazione che ruota intorno all'accoglienza dei migranti in regione, lo avete sentito dai titoli, le strutture sono in affanno a Trieste e a Udine, non va meglio a Gradisca di Sonzo, dove le paratiche burocratiche bloccano lo smistamento, chi arriva dalla rotta balcanica si mette in fila e dorme dove può, innescando inevitabili tensioni con la popolazione, l'ultimo episodio un operatore del CARA aggredito da un residente. Sul suo volto ancora i segni della violenza. Abdelghafur, marocchino, operatore dell'accoglienza al CARA di Gradisca di Sonzo per conto di una cooperativa, in Italia da 15 anni si sta riprendendo a fatica dall'aggressione subita la scorsa domenica sera mentre era al lavoro. Io ho fermato, mi ha detto chi sei, vuoi scappare? Io lavoro qua. Dopo ho girato e ho dato un calcio al mio piede, è caduto e ho cominciato a dare le pugni. In ospedale gli hanno dato 10 giorni di prognosi. Ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno identificato il suo aggressore, un residente del posto che non aveva mai incontrato prima. Un episodio del quale ancora non si capacita, che lo ha segnato anche dentro, racconta, e che ha taciuto i suoi 3 figli. Sempre sveglio come un paura. E adesso tornerà a lavorare? Difficile per andare di nuovo. Ha paura? Sì. A segnalare l'accaduto la UIL FPL, il suo sindacato, il portavoce regionale Stefano Braico. Questo è un fatto gravissimo. Immaginiamo sia stato scambiato per un richiedente asilo. Noi chiediamo il rispetto della norma, della sicurezza sul lavoro. Noi chiediamo il rispetto della dignità dei lavoratori, soprattutto il rispetto della persona. A pochi chilometri dal centro di accoglienza ormai saturo da mesi, il portavoce del sindacato Unarma, Fabio Fontana, lancia invece il suo grido d'allarme sulla situazione che si ritrova a gestire il personale della locale stazione dei carabinieri, costretto a improvvisare una lista di prenotazione per gestire il flusso inarrestabile dei migranti. Si crea una lista, diciamo proprio così, una lista cronologica in ordine di presentazione. Quei 5 o 6 che sono più fortunati riescono e gli altri dovranno aspettare anche una settimana. E in questo frangente chiaramente devono trovarsi una sistemazione dove capita. Tutto intorno la cittadina mostra i segni della convivenza tra la rassegnazione e preoccupazione dei residenti. Lasciare il loro paese non penso sia una cosa facile. Giudicare non si può. Sono tanto giovani, sono una madre anch'io e quindi li vedo veramente persone che forse vogliono un mondo migliore, ma forse noi non riusciamo neanche a darglielo. Gradisca di Sonzo, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due aggressioni a Udine nel giro di 2 giorni a 2 donne. In entrambi i casi gli autori non sono familiari e neppure ex, come accade di solito. Nel caso più grave, l'aggredita ha riportato una lesione permanente al volto. Un ventenne è stato arrestato a Udine per aver sfregiato una donna al volto senza apparente motivo. I due non si conoscevano. La donna ha riportato lesioni permanenti. Di qualche anno più anziana dell'uomo, cittadina straniera, aveva accolto il giovane nel suo appartamento del centro città, dove riceve per appuntamenti. I due avevano concordato ora e luogo via chat. Era da poco passata l'una di notte, tra giovedì e venerdì scorso. Il ventenne, italiano residente nella provincia di Udine, si era portato dietro una bottiglia con la quale l'ha colpita violentemente e più volte al capo, diversi tagli al labbro, alle guance e al volto. Per essersi presentato all'appuntamento con la bottiglia, occultata tra i vestiti, verrà chiesta l'aggravante della premeditazione. L'uomo rischia una condanna dagli 8 ai 14 anni di reclusione. Dopo l'aggressione era riuscito a fuggire da una finestra del bagno. A dare l'allarme il coinquilino della donna ferita e un netturbino. Gli agenti delle volanti della questura di Udine lo hanno trovato a casa del padre con ancora tracce di sangue tra le mani, nei vestiti e sulle scarpe. Il genitore era ignaro dell'accaduto. L'arrestato non ha fatto resistenza e sul momento ha fatto parziali ammissioni. Convalidato l'arresto, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Meno di 48 ore dopo, sabato sera, un'altra ragazza finita in ospedale dopo un'aggressione in centro a Udine, anch'essa apparentemente senza spiegazioni, immotivata. Una giovane che passeggiava con un'amica poco dopo le 19 è stata colpita con un calcio al petto da un uomo. I carabinieri intervenuti descrivono l'aggressore sulla quarantina, alto 1,85, stempiato ma con i capelli lunghi, carnagione olivastra. La ragazza non ha riportato traumi importanti. L'uomo si è dato alla fuga e non è ancora stato rintracciato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alle notizie della politica. Tra i primi passi del governo appena insediato ci sono anche le nomine dei viceministri, le posizioni dei rappresentanti politici regionali. Sentiamo. Fatto il governo, ora si devono fare i sottosegretari e i naviganti di lungo corso delle aule parlamentari raccomandano di non sottovalutare le presidenze di commissione. Il toto nomine stenta però a decollare, anche perché i nostri interlocutori dicono di non voler dare indicazioni precise in quanto potrebbe essere interpretato come voglia di bruciare possibili candidature. Tutti rimandano a novità i primi giorni di novembre, incassata la fiducia e passato il tempo fisiologico delle trattative, che paiono, come sempre stato, complesse e laboriose. In Forza Italia, pur non avendo eletti del Friuli Venezia Giulia in Parlamento, si auspica comunque una rappresentanza regionale all'interno dell'esecutivo, ma, dice la coordinatrice azzurra Sandra Savino, sono decisioni che arrivano direttamente dal presidente Berlusconi. Nella Lega non si fanno nomi, ma si parla della comprovata competenza dei suoi uomini e donne da affiancare ai ministri. Il neosenatore Marco Dreosto rimanda al prossimo Consiglio federale di fine settimana per avere una lista completa dei papabili. Stesso leitmotiv in Fratelli d'Italia, che con Walter Rizzetto indica in una riunione di mercoledì pomeriggio l'avvio della discussione in materia. Intanto sul tavolo di Palazzo Chigi è in arrivo un corposo documento della conferenza delle regioni e province autonome con un elenco di proposte strategiche delle regioni per i prossimi provvedimenti legislativi e la legge di bilancio dello Stato. La crisi di questi mesi, si legge nel documento, deve essere trasformata in occasione per ricreare posti di lavoro attraverso filiere corte, impostare una strategia di politica comune che abbracci la ricerca e l'innovazione tecnologica, la cyber security e i settori a forte intensità energetica, assieme a energie rinnovabili, la digitalizzazione e la salute. Ieri a Pordenone si è tenuto un incontro organizzato dalla CISL per fare il punto sulla collaborazione a Nord-Est. C'erano presenti i presidenti di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Federica e Zaia, e il segretario nazionale del sindacato, Luigi Sbarra. Il Nord-Est si interroga su quale progetto possa essere realizzato per lo sviluppo di un'area sempre più omogenea dal punto di vista produttivo, e lo fa per iniziativa della CISL, mettendo attorno a un tavolo i governatori di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Federica e Zaia, moderati dal segretario nazionale Luigi Sbarra. Un confronto che ha risentito anche di una precisa richiesta del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che in apertura dei lavori ha chiesto la revisione del PNRR per le tue regioni, soprattutto per l'assoluta mancanza di risorse finanziarie per le nuove infrastrutture viarie. Un appello subito accolto dal presidente del Veneto, Luca Zaia. Non c'è un centesimo da parte di Roma sulla terza corsia. 500 milioni di euro che diventeranno 750 con tutti i casini delle materie prime, se li paga direttamente la Newco che abbiamo fatto e ce li paghiamo in virtù di una nuova concessione della proroga e ce li paghiamo dopo non poche traversie dal punto di vista burocratico. Sulla terza corsia Federica conferma che si sta andando avanti secondo la tabella di marcia con il protocollo d'intesa per il passaggio alla Newco che è alla registrazione della Corte dei Conti, sottolineando anche l'attenzione del suo esecutivo per le attività imprenditoriali della nostra regione. Sicuramente noi dobbiamo avere un occhio di attenzione per tutto il sistema produttivo, sia della grande che della media impresa e della piccola impresa ovviamente, che sono la nostra struttura portante. Dall'altro lato, oltre il problema dell'energia, dei gas, dell'approvvigionamento di materie prime, esiste un serio problema di carenza di manodopera e di lavoro. Assumere una visuale sovraregionale e una capacità di proposta condivisa è stato il ragionamento del segretario nazionale della CISL, Luigi Sbarra. Bisogna rafforzare le dinamiche di collaborazione tra la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia. Sono territori che hanno molte affinità sotto il profilo industriale, economico, manifatturiero, occupazionale. Quindi bisogna migliorare queste sinergie e fare grandi investimenti. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prende via oggi in Consiglio regionale la discussione della manovrina d'autunno, il disegno di legge dedicato alle misure finanziarie multisettoriali. Per la maggioranza interverranno i consiglieri Mauro Bordin e Alessandro Basso, mentre a illustrare le posizioni delle minoranze saranno Roberto Cosolini, Massimo Morettuzzo, Furio Onsel e Cristian Sergo. La discussione proseguirà anche domani in subordine al deposito delle relazioni di maggioranza e opposizione. Veniamo ora al risultato delle elezioni in Slovenia. Nessuno dei 7 candidati in lizza per la successione al presidente Borut Pahor ha superato la soglia del 50% dei consensi. Si andrà dunque al ballottaggio il prossimo 13 novembre. Gli sloveni torneranno alle urne il 13 novembre per eleggere il nuovo capo di Stato che succederà ai 2 mandati di Borut Pahor. Dei 7 candidati che si sono presentati al primo turno, i 2 che hanno convinto maggiormente gli elettori e che quindi si sfideranno al ballottaggio sono il 46enne Angel Logar, già ministro degli esteri nel governo Janša, che ha raccolto il 34% dei voti, e l'indipendente giurista Natasha Pirc-Musar, che ha ottenuto il 27% delle preferenze. Logar, economista, si è costruito la sua carriera politica all'interno del partito conservatore dei democratici sloveni di Janša. Gode nella campagna dell'appoggio dei popolari e chiederà anche quello del partito nazionale. La 54enne avvocatessa Pirc-Musar a Lubiana è stata già commissario per l'accesso alle informazioni pubbliche, che per certa misura equivale al nostro garante della privacy, e nel 2013 ha presieduto l'istituzione europea che si occupa della protezione dei dati privati dei cittadini. Nella sua campagna è sostenuta dall'ex capo dello Stato Danilo Türk, ieri a urne chiuse ha ricevuto l'endorsement anche del primo presidente sloveno Kučan e il premier Golob, che nel primo turno sosteneva con il suo partito Svoboda, Libertà, il candidato dei Dem Brglez, arrivato terzo con il 15% dei voti, appoggerà l'esperta di protezione dei dati personali, che ha nel secondo turno dalla sua anche l'ex presidente del Parlamento ed ex candidato Brglez. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta nella storia della Repubblica d'Italia c'è una donna a capo del governo. Ma qual è la situazione sul territorio? Quante donne ci sono oggi ai vertici delle regioni o delle amministrazioni comunali? Fabiana Martini ha compiuto un'analisi sul campo attraversando tutta la penisola, un'analisi contenuta nel libro Il governo delle donne, viaggio tra le amministratrici locali italiane, che sarà presentato oggi a Trieste al Circolo della Stampa alle 18:15. Le abbiamo chiesto se Giorgia Meloni è un'eccezione che conferma la regola. Spero che non sia un'eccezione che conferma la regola. Indubbiamente ci sono stati in questi anni molti passi avanti. Basti pensare appunto che nel 1946, prima volta delle donne al voto e dell'eleggibilità delle donne, le sindache elette furono soltanto 10, mentre nel 2021 erano 1167. Però questo non deve farci stare tranquilli, perché in realtà a 76 anni da quella data, in questo momento sono solo il 15% le sindache nel nostro paese, quindi una percentuale veramente troppo bassa, veramente minima, se si pensa che le donne sono la maggioranza, insomma, o comunque la metà della popolazione, un po' più della metà. Quali sono le ragioni per cui solo il 15% delle amministrazioni comunali sono rette da una donna? C'è un motivo innanzitutto storico, cioè le donne non erano abituate a partecipare alla vita pubblica. C'è un tema che è forse il principale da questo punto di vista, che è quello della conciliazione con i tempi di vita, perché ricordiamoci che il nostro è un paese in cui il carico domestico, ma soprattutto il carico della cura, non soltanto dei figli, ma spesso anche dei genitori anziani o dei familiari, è tutto ancora quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, e a questo bisogna aggiungere anche il cosiddetto carico mentale, cioè proprio il pensiero, no? L'organizzazione. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Semplificazione è una delle parole d'ordine della proposta complessiva in tema di sviluppo economico che il gruppo della Lega in Consiglio regionale presenterà in novembre. La proposta è stata illustrata in anteprima ieri. Il gruppo consigliare della Lega per Salvini presenterà a novembre in aula la proposta di legge misure per la semplificazione e la crescita economica. Si tratta di una proposta omnibus che nei 35 articoli prevede fondi a sostegno dell'imprenditoria femminile nei comuni sotto i 15.000 abitanti, contributi alle vittime di usura, 1 milione di euro per la riqualificazione dei quartieri dei centri abitati maggiori e ancora nei capitoli dedicati alla caccia elimina la limitazione del numero di cani per cacciatore e via anche la limitazione numerica per la squadra di caccia. 3 milioni e 200 mila euro la dotazione finanziaria prevista, che con il passaggio della manovra autunnale potrebbe arrivare a 5 milioni di euro, confida il capogruppo Bordin, che pone l'accento sulla semplificazione soprattutto in materia di urbanistica e attività produttive e il sostegno all'economia. Il supporto all'economia del mare, il supporto all'economia turistica, il supporto all'economia legata ai festival, agli eventi culturali, agli spettacoli e poi grande attenzione all'imprenditoria femminile, quindi al mondo femminile. L'omnibus leghista prevede anche una convenzione con la concessionaria autostradale per ridurre i pedaggi e l'istituzione della guardia costiera ausiliaria e dei security manager. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le truffe finanziarie in aumento anche nella nostra regione, come ricorda il recente caso della truffa delle criptovalute. Ne abbiamo parlato con il procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito, che oggi alle 12 interverrà a un incontro su questo tema organizzato dall'Università di Udine nell'auditorium del campus della sede di Pordenone. La Procura di Pordenone sta da qualche anno investendo molte energie in questo campo, creando gruppi di lavoro, affinando tecniche investigative moderne e allacciando rapporti internazionali, perché il problema non è solo che le persone offese perdono del denaro sudato con il proprio lavoro, ed è nostro compito tentare di tutelare queste persone, ma anche quello di impedire il trasferimento di ricchezza a gente senza scrupoli. Il mondo economico finisce per essere falsato. Il risparmio di pochi è un valore, è un bene per tutti e non va sprecato in questo modo. L'errore di prospettiva che si fa è proprio questo: pensare che il danno sia solo di colui che ha voluto rischiare e quindi gli sta bene che ora paghi, ora le conseguenze. Non è così invece. Il denaro, in mano alla delinquenza, va evitato il più possibile. Questo denaro, che potrebbe generare ricchezza, finirà per nuocere a tutti noi. Chi sono i soggetti più vulnerabili a queste truffe? Verrebbe da dire le persone anziane che hanno risparmi da parte e si approcciano in maniera ingenua alla rete. Io penso invece che i soggetti più vulnerabili siano le persone tendenzialmente avide, che vogliono fare l'affare a tutti i costi e diffidano, sbagliando però, delle istituzioni. Pensano che gli altri, quelli che rispettano le regole, li stiano truffando ed ingoiando e così finiscono da soli per mettersi nella bocca del lupo. Quali sono i consigli per non incorrere in truffe o almeno ridurre il rischio di incorrere in truffe? Penso che la cosa migliore sia quella di informarsi per bene e soprattutto diffidare di guadagni esagerati, inverosimili, diffidare soprattutto di chi ci esprime le cose in maniera difficile e dall'apparenza incomprensibile, non avere timore di chiedere, verificare, riscontrare e soprattutto ricordarsi che le regole non sono un inutile peso burocratico che vanno rispettate solo dagli ingegni, ma sono invece da rispettare perché sono proprio messe lì per tutelare la collettività. Sono stati assegnati al Comune di Palmanova 670.000 euro sul bando regionale che eroga contributi per promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti volti alla riqualificazione di aree compromesse e degradate. I fondi saranno destinati alla riqualificazione e al recupero dell'area antistante l'ex caserma napoleonica Filzi, nel complesso dell'ex caserma Ederle. In particolare, sarà possibile demolire due edifici gemelli fatiscenti, utilizzati in epoca recente come corpi di guardia, un capannone davanti all'ex Filzi ed altre due strutture che ora impediscono la visione generale. Soprattutto sarà possibile riaprire la strada delle milizie, l'antica via della fortezza che percorreva l'intero perimetro della città. Con funzioni militari di spostamento delle milizie di ronda sarà così possibile ripristinare parte dell'antica viabilità rinascimentale della fortezza. L'intervento permetterà anche la riqualificazione di piazza d'armi antistante la struttura napoleonica, permettendo anche l'accesso a baluardo donato attraverso il portone in legno della caserma stessa. Nel piano di intervento programmata anche la realizzazione di rampe di accesso disabile e la demolizione della cabina dell'energia elettrica che impedisce la visione completa della polveriera napoleonica Barbaro. È stato presentato a Trieste il piano di risanamento radicale e di abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi, delle scalinate, delle gallerie e dei torrenti presenti sul territorio del comune, per un impegno di spesa di circa 2 milioni di euro. L'assessore Sandra Savino ha sottolineato come il progetto sia finalizzato all'eliminazione delle cause di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e all'aumento del livello di sicurezza dei cittadini attraverso il ripristino della qualità dei manufatti, della viabilità del territorio comunale, degradati dalla normale usura, talvolta aggravata da interventi reiterati sui sottoservizi. Il primo step prevede la presentazione dei bandi entro dicembre 2022 e l'inizio dei lavori nel 2023. Alle 7.40 siamo al bollettino della pandemia, casi di coronavirus ancora in leggero calo. Ieri il bollettino regionale ne riportava 291 rispetto ai poco più di 300 di lunedì scorso. Sono stati analizzati 1.737 tamponi con tasso di positività di poco inferiore al 17%. C'era una persona in più in terapia intensiva per un totale di 9. I pazienti positivi negli altri reparti erano 194, 4 più di domenica. Per il secondo giorno consecutivo il bollettino regionale non ha registrato decessi. E da ieri è possibile prenotare la quinta dose del vaccino anti-Covid anche per le persone over 60. Le categorie a cui questo richiamo è raccomandato sono persone con fragilità e ospiti delle case di riposo. Ricordiamo che il richiamo è somministrabile anche contemporaneamente con il vaccino anti-influenzale o a breve distanza da quest'ultimo. 3 giorni per discutere di innovazione e ricerca nel campo del trapianto di organi. Trieste sta ospitando il Congresso Nazionale della Società Italiana Trapianti di Organi. Sentiamo. Chirurgia robotica, macchine da perfusione, quelle che servono a preservare gli organi al di fuori del corpo umano, donazioni da vivente e trapianti da animale a uomo. Sono queste le ultime frontiere da sviluppare nel campo delle attività trapiantologiche, temi sui quali si stanno confrontando i migliori esperti in Italia che si sono dati appuntamento per il 45esimo congresso nazionale della SITO, la Società Italiana Trapianti d'Organo. Una 3 giorni ospitata a Trieste, dove il professore Fabrizio De Benedetto ha presentato uno dei pochi interventi al mondo di prelievo di fegato da donatore vivente con tecnica robotica, da lui effettuato pochi giorni fa a Modena. Sotto i riflettori anche il xenotrapianto, il trapianto da animali. Il presidente della SITO, Ugo Boggi. Il simbolo della società è una chimera, no? Che sì, sia un animale a più pezzi che un qualche cosa forse di irraggiungibile. Sarebbe quello un domani di arrivare ad avere degli animali che funzionino un po' come delle... È brutto dirlo, ma pigliate la parte buona, no? Una specie di fabbrica di pezzi di ricambio che potrebbero perfino arrivare ad essere individualizzati sulla persona. Sembra fantascienza, ancora oggi è un po' in avanti, ma è una cosa che potrebbe capitare. Il congresso è anche l'occasione per riflettere sulle prossime frontiere per aumentare il numero di organi disponibili. Serve una cultura delle donazioni per ridurre le attese, ma su questo l'Italia è a buon punto. Siamo sui livelli europei dell'Europa, chiamiamola occidentale per intenderci, ma è un campo che va coltivato continuamente, esattamente come un giardino di casa che oggi può essere molto bello, ma se poi non lo annaffiamo, non lo coltiviamo, si inaridirà, quindi... Siamo bene, potremo anche comunque essere meglio, ma per continuare a stare bene come siamo dobbiamo lavorare. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, oggi tornerà in presenza il Graduation Day dei dottori di ricerca dell'Università di Trieste, con i 103 neodiplomati che festeggeranno con il tradizionale lancio del tocco. Ospite d'eccezione il chimico e divulgatore scientifico Gianfranco Pacchioni, ordinario all'Università di Milano Bicocca, che terrà una lectio magistralis dal titolo Fare scienza oggi tra libertà, competizione e responsabilità. La cerimonia inizierà alle 10.30. Con l'avvio del biennio formativo 2002-2024, il MITS Academy rinnova la sfida dell'alta formazione tecnica per rispondere all'evoluzione dell'industria. Nella sede di Flette Umberto sono stati accolti 131 nuovi giovani corsisti iscritti ai 7 percorsi di alta formazione in ambito meccatronico, manutentore di aeromobili, progettista aeronavale, nautico e hospitality, eco design, energy specialist. Accanto a percorsi consolidati come quello della meccatronica aeronautica, in linea con le esigenze dell'industria e del mercato, arrivano anche due novità nel campo energetico e della sostenibilità ambientale, Energy Specialist e Eco Design. Entrambi i percorsi sono orientati alla rivoluzione green, a formare cioè competenze utili a contenere gli sprechi nella produzione degli oggetti e dell'energia. Sono confermate le sedi didattiche ormai tradizionali, a Udine, all'Isis Malignani e al Liceo Sello, a Feletto Umberto il MITS 2 che ha arricchito il numero dei laboratori 4.0 disponibili per i corsisti e che nell'anno vedrà crescere le dotazioni nell'ambito della realtà virtuale aumentata e avvierà il laboratorio di digitalizzazione, raccolta e gestione dati. Meteo permettendo, anche nella nostra regione oggi sarà possibile vedere l'eclissi parziale di sole che inizierà poco dopo le 11. Ci spiega come farlo al meglio Mauro Messerotti, ricercatore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste. L'eclisse parziale di sole inizierà da noi alle 11.18, avrà il massimo alle 12.19 e terminerà alle 13.22. Purtroppo il meteo non è favorevole, ma siccome saremo in collegamento con vari osservatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, speriamo che per esempio magari in Sicilia abbiano delle condizioni molto più favorevoli e sia possibile mostrare in streaming l'evoluzione dell'eclisse. Qui al nord avremo il 34% del diametro del Sole che sarà oscurato dalla Luna, non è tantissimo, ma comunque il fenomeno è sensibile. Non sarà un'eclisse totale in nessuna parte del mondo. Per poterlo osservare in sicurezza è necessario utilizzare dei filtri certificati per la protezione dell'occhio. Quindi il più semplice è un vetro per saldatura di gradazione 14, tollerabile anche la 12, oppure quegli occhialini che si comprano ma che sono certificati per osservare il sole, diciamo, senza particolari strumenti. Non vanno bene nessuno dei sistemi che una volta venivano utilizzati, vetro affumicato sulla candela, pellicola non sviluppata e così via, sono pericolosissimi. Alle 7.46 siamo alla rassegna stampa. Il Piccolo di Trieste titola sui vaccini anti-Covid. In regione si parte con la quinta dose, aperte le prenotazioni per il terzo richiamo, individuati 5 casi della sottovariante Cerberus. Una fotonotizia è dedicata poi alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che da domani sarà in visita nei Balcani. In alto, due richiami e notizie economiche. Patto a Nord-Est tra Zaia e Fedriga su logistica, lavoro e ricerca e, per 1.350 dipendenti di Illy Caffè, in arrivo il bonus anticrisi. In basso invece la notizia di una ricerca che coinvolge il laboratorio di ricerca di Area Science Park contro l'Alzheimer, cure diversificate per uomini e donne. In futuro si ricorrerà a terapie personalizzate in base al sesso. All'interno un articolo dedicato all'accoglienza dei profughi ucraini in regione. La presenza è stabile ma crolla la solidarietà. Aumentano le sistemazioni negli appartamenti e calano quelle in famiglia. In molti hanno interrotto l'esperienza della convivenza. Accolte finora oltre 6.000 persone. Le pagine della cronaca di Trieste aprono invece sul piano di lavori pubblici da 2 milioni approvato dal Comune, che riguarda marciapiedi, torrenti, scalinate e gallerie. Oltre la metà delle risorse viene destinata a garantire l'incolumità dei pedoni. Le nuove sfide dell'economia, infrastrutture e lavoro per il rilancio del Nord-Est. Questo è il titolo principale della prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, oggi in edicola, che nel sommario aggiunge i governatori Federica e Zaia, sinergie tra i territori per affrontare le emergenze. In centro pagina un collage di fotonotizie sulle misure antispreco a Udine, con tante porte di negozi ancora aperte, e il titolo c'è l'ordinanza, ma il bel tempo lascia le porte aperte, riferito al fatto che per non sprecare il riscaldamento dovranno rimanere chiuse per ordinanza del comune. Nella colonna di destra una serie di richiami di cronaca con malore mentre lavora, militare muore mentre è in caserma a Remanzacco. Sotto cronaca giudiziaria con le soluzioni confermate anche in Cassazione per il caso delle latterie friulane. A piedi pagina la notizia che abbiamo riferito già ieri nei nostri giornali con la donna sfregiata con una bottiglia in un appartamento in città. L'aggressore, un ventenne, è stato arrestato. Nella versione online del quotidiano di Viale Palmanova anche la notizia della minorenne friulana palpeggiata in centro a Milano mentre era con i genitori, fermato il molestatore. Sempre sull'online, con una bella foto, una notizia di lutto titolata «Si ferma il viaggio di Alfio Scandurra, morto a 52 anni, il blogger e scrittore naturalista che aveva girato il Friuli con il suo figlio asinello». Dopo il titolo su von der Leyen, il titolo principale della prima pagina dell'edizione di Gorizia del Piccolo è dedicato al caro bollette che spegne il Natale. Luminarie ridotte, previsti aumenti del 50% nelle spese energetiche. Il comune corre ai ripari e vara un decalogo ad hoc negli uffici. Spazio poi a due richiami. Bonifica completata, il centro Belforte riapre dopo l'incendio. Venduto alla quinta asta un investitore sloveno l'autosalone Bigot. In basso, infine, un bilancio del festival Jazz and Wine of Peace, che chiude in bellezza con 5.000 presenze. Il caro energia apre le pagine della cronaca di Gorizia, con il comune costretto a rivedere le previsioni visti gli aumenti enormi dei costi. Alla vicenda dell'incendio al centro commerciale Belforte è dedicata invece l'apertura della cronaca locale di Monfalcone. Bonificato l'edificio e ripristinato il sistema antincendio, il polo commerciale ottiene il via libera dai vigili del fuoco. Anche il dorso che il Gazzettino dedica a Pordenone ha in prima pagina il summit di ieri con il segretario generale della CISL Sbarra, cui hanno partecipato anche i governatori Zaia e Federica. Friuli, la ricetta per battere la crisi, il titolo principale, con il sommario, il presidente Federica al vertice della CISL, più infrastrutture e meno burocrazia, il PNRR deve essere rivisto al più presto. La fotonotizia di centro pagina dedicata ad Alfio Scandurra, l'ex rugbista e naturalista, vinto dal male a solo 52 anni, aveva girato a piedi il Friuli con il suo fido asinello Fiocco, facendosi conoscere e apprezzare da moltissime persone. Cronaca nelle colonne di sinistra con la notizia della soluzione di una dipendente che aveva denunciato violenza e minaccia all'ispettorato del lavoro. Due richiami di sanità invece nella colonna di destra, in alto, anziani prigionieri del Covid nell'RSA, dedicato alle misure restrittive cui sono sottoposti in caso di contagio. Sotto Sacile c'è solo un pediatra in tutto il territorio. Scendendo a piedi pagina la notizia che a Pordenone è stata avviata una stretta decisiva a chi evade il pagamento della Tari, la tassa dei rifiuti. Immancabile poi una notizia di calcio, del Pordenone Calcio, con Di Carlo che scuote i neroverdi. Bisogna essere concreti, ha detto. Sul Corriere della Sera di oggi c'è la prima intervista da ministro del pordenonese Luca Ciriani, dedicata ai numeri della maggioranza in Parlamento. Tutti presenti in aula, è il titolo. Tradire il consenso avrebbe un costo altissimo, il Senato non va sguarnito. Si apre questa sera con Il Mercante di Venezia di Shakespeare la stagione di prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, rappresentata per la prima volta a Londra nel 1598. L'opera proposta nell'allestimento prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro degli Incamminati. Lo interpreta una compagnia d'attori capeggiata da Franco Branciaroli, che offrirà una prova magistrale nel ruolo cardine dell'ambiguo usurario Shylock. Con inizio alle 20:45 lo spettacolo sarà in replica fino a giovedì 27. Un volume autobiografico che ripercorre gli anni difficili del fascismo e della guerra vissuti a Trieste dall'intellettuale Anna Curiel Fano, esponente di quell'ambito culturale ebraico che permea la cultura triestina della prima metà del Novecento. Si intitola Ricordi di ore difficili e verrà presentato alle 17:30 a Trieste, al Museo della Comunità Ebraica in Via del Monte. Franz Prascheren, vissuto nella prima metà del XIX secolo, è il poeta simbolo della cultura slovena, cui con le liriche ha contribuito a dare una dimensione europea. La traduzione italiana dell'unico libro che pubblicò in vita, Poesie del dottor Franz Prascheren, del 1847, è da poco stata pubblicata a cura dello slavista dell'Università di Trieste, Miran Kosciuta. Il curatore lo presenterà oggi alle 17.30 insieme al teologo Andrea Bellavita al Kulturnidom di Gorizia. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR delle 11, con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelin D parlerà delle ripercussioni legate al nuovo disegno di legge sulla disabilità, a breve all'esame del Consiglio regionale. A seguire, dalle 11.20 andrà in onda Radar, il programma dedicato alla scienza. Tra i temi trattati, l'innalzamento del livello dei mari, un progetto che lega arte e scienza attraverso lo studio dei bachi da seta e la professione del nefologo. Al termine, la rubrica Almanacco Scientifico. I programmi regionali torneranno poi alle 13.30. Era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Giampaolo Zucchi e Carlo Morello, da Daniele Letti, Germando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.